si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Eccoci qua con Si può fare, ben ritrovati in diretta al buongiorno del weekend di Radio 24. Stiamo insieme fino alle 10 questa mattina. Cominciamo con, tra pochissimo, con un'occhiata ai giornali di oggi, una rassegna stampa veloce che ci porterà fino al giornale radio delle 8, poi riprenderemo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie, l'unico, l'inimitabile programma che cerca, insomma, di tirarvi su il morale dopo una settimana di cronaca. Questa sabato però partiamo da un'intervista al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Non c'è molto da scherzare, non c'è molto da ridere, parliamo di legge di stabilità. Faremo un po' di chiarimenti dopo che è stato appena presentato, tra l'altro, il testo definitivo. Ci sono delle novità sulla legge di stabilità e parleremo anche di slot machine, perché sembrava in un primo momento che, dopo tante chiacchiere, le concessioni per nuovi punti scommessa aumentassero, quindi, diciamo, lo Stato andasse ancora a far cassa sull'azzardo, e invece anche su questo, dopo diciamo la questione dei castelli e le tasse sui castelli, c'è stata una retromarcia del governo. Vedremo dopo il GR delle 8. Adesso cominciamo intanto i nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale: pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Poi c'è il numero SMS 349-238-6666. Apriremo la diretta, il centralino della diretta, dopo il GR delle 8. Ah, e poi avremo anche il grandissimo Bobo Rondelli fresco di Premio Tenco. Lo sentiremo però tra più di un'ora, dopo le 9. Quindi adesso andiamo a iniziare. Vai! E allora, giornali con in prima pagina, naturalmente, diciamo, questi attacchi che sono risuonati da Bari, dal Congresso Nazionale del Sindacato dei Magistrati, l'ANM, al governo, che si occupa più di intercettazioni che di mafia, è l'accusa, le repliche del governo. Poi, dicevamo, le novità per quanto riguarda la legge di stabilità, novità che riguardano il saldo leggermente inferiore, ma soprattutto il tema delle coperture. Ci sono più tagli di spesa, ma sembrano soprattutto tagli lineari e non i tagli che si attendevano per quanto riguarda, diciamo, il capitolo spending review, cioè il famoso efficientamento della spesa, una voce che sarebbe ridotta a poco più di 200 milioni di euro. Quindi, diciamo, una manovra che cambia. E poi, insomma, ancora un po' di cronaca con l'inchiesta che riguarda l'ANAS e altre questioni. Cominciamo con il Corriere della Sera. Prova di forza, toghe governo, dicevamo, l'ANM vede una strategia di delegittimazione. Il PD replica frasi ingenerose. Di che cosa si tratta? Vediamo velocemente. I giudici dicono: vogliono delegittimarci, un nuovo fronte si apre con il governo. Cambiano le stagioni, scrive il Corriere, i protagonisti, ma la contrapposizione tra giustizia e politica resta e sembra proprio che non se ne possa fare a meno. Dice il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sabelli, il tema delle intercettazioni, cioè la limitazione delle intercettazioni, strumento di inchiesta giudiziaria caro ai magistrati, ma su cui il governo vuole intervenire per mettere un limite, un freno, sia alle presupposte esagerazioni, sia alla pubblicazione delle intercettazioni, le parti che non sono, sono inutili, ma che spesso invece emergono, diciamo, spesso anche rovinando delle persone che magari poi nelle inchieste non c'entrano nulla. Ma insomma, il tema delle intercettazioni, dice Sabelli, ha finito con l'assumere una centralità perfino maggiore dell'attenzione dedicata ai problemi strutturali del processo e ai fenomeni criminali endemici. Il sindacato dei magistrati si ribella all'immagine facile e falsa di un'associazione magistrati espressione di una corporazione volta alla rivendicazione dei propri privilegi in una quella che loro definiscono una colpevole strategia di delegittimazione. Il Corriere ci ricorda quali sono i punti sul tavolo: le ferie tagliate dal governo dei magistrati da 45 a 30 giorni, è stata introdotta la responsabilità civile dei magistrati, aumentata insomma in alcuni punti, e poi il giro di vite sui tempi e i modi dell'impiego delle intercettazioni, sia appunto nelle indagini dei magistrati. Restando su questo argomento, andiamo su Repubblica, dove c'è il titolo: magistrati in trincea, governo debole contro i corrotti. Intervista al, scusate, sposto un attimo il microfono, così mi sentite meglio. C'è un'intervista al vice ministro della giustizia Enrico Costa, che risponde a queste critiche e dice: la domanda è, i magistrati accusano il governo di dedicare più tempo alle intercettazioni che alla mafia. È falso, c'è la legge anticorruzione, c'è l'aumento delle pene e quindi della prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, la restituzione del mal tolto per patteggiare, il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, le norme contro la mafia, puntini puntini. Questa è la risposta del vice ministro Costa. Ma replica il giornalista di Repubblica: questo è solo un elenco delle buone intenzioni. No, queste sono proposte già diventate leggi. Ma sul tema delle intercettazioni state perdendo un sacco di tempo. Domanda: falso anche questo? Risponde il rappresentante del governo: le intercettazioni sono solo un comma di un testo amplissimo. E sulla questione invece delle ferie, del taglio degli stipendi, insomma, ve la siete presa con i magistrati. Falso, erano norme erano e sono norme equilibrate, risponde il vice ministro della giustizia, necessarie e di buon senso, tant'è che nessuno si è strappato i capelli quando sono state applicate. E vabbè, questo diciamo è il punto su punto tra magistrati e governo dai giornali di oggi. Torniamo sulla prima pagina del Corriere. Ci sono stralci l'inchiesta pubblicata dai giornalisti che seguono queste vicende sull'ANAS, parlamentari e ministri nell'agenda della Dama Nera, scrive Fiorella Sarzanini. Per ottenere tangenti e favori dagli imprenditori che aiutava a sbloccare le pratiche, la Dama Nera dell'ANAS sfruttava ogni canale, soprattutto politico. Antonella Croglianò, da segretaria a dirigente dell'ANAS, arrestata 2 giorni fa insieme a altre 9 persone, caldeggiava l'interessamento di parlamentari e ministri ai quali sollecitava raccomandazioni per poi passare all'incasso con i titolari delle aziende. È l'indagine della Guardia di Finanza, ci sono aspetti anche interessanti. Io però dico, perché dobbiamo, adesso è stata inventata un'altra figura, la Dama Nera, la Dama Nera, anche Repubblica, ANAS, la rete politica della Dama Nera, quasi a dare un'aura di mistero, di interesse. La Dama Nera era una ladra dell'ANAS, non era una Dama Nera, era una ladra che rubava i soldi pubblici e faceva lavorare le aziende che non se lo meritavano all'ANAS, altro che dama. Però i giornalisti, colleghi stimabili anche come Fiorella Sarzanini, non so se il titolo è suo, amano dare queste definizioni, che però rischiano di dare appunto un alone quasi di positività, di mistero positivo intorno a queste figure. Restano gli assenteisti di Sanremo, sono tutti dipendenti pubblici, criminali, perché intendiamoci, non li voglio difendere, non è che chi invece timbrava il cartellino e poi andava in canoa sono dei pazzi assoluti, anche quelli andrebbero sicuramente perseguiti per legge, però quelli sono assenteisti, fannulloni a prendere a calcio il sedere, e lei è la Dama Nera, invece no, è la ladra dell'ANAS. Io credo che anche le parole, come diceva Moretti, sono importanti. Vabbè, però cosa c'è qui sulla questione della Dama Nera? Sentiamo, leggiamo un pezzettino di intercettazioni, perché insomma lei parlava così, parlava con la rappresentante di una fondazione per dirgli che si sarebbe presentato da loro un imprenditore che poi avrebbe dovuto, diciamo, parlare con Ciucci, presidente dell'ANAS, e questa cosa andava fatta prima che Ciucci lasciasse la presidenza dell'ANAS. Ho detto: fai chiamare Ciucci, gli devi dire che i soldi devono uscire dalla cassa nostra, noi li anticipiamo e poi glieli ridiamo, cavaliere. Qua deve smuovere tutto il mondo, si deve smuovere tutto. E in questa intercettazione c'è di mezzo anche l'ex ministro Matteoli, che però nega diciamo di essere coinvolto in qualsiasi maniera. È questo il caso dell'imprenditore Ricciardello, che doveva essere, diciamo, favorito nei lavori dell'ANAS attraverso l'intervento di questa fondazione, la Fondazione Formiche, vicina alla rivista fondata da Paolo Messa, oggi nel CDA della RAI. Insomma, un garbuglio intricatissimo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, stavamo leggendo sui giornali di oggi, in particolare il Corriere, Fiorella Sarzanini, l'inchiesta sull'ANAS e insomma i particolari che emergono sul lavoro sporco di questi dirigenti arrestati. Insomma, il giro è sempre quello: tangenti. Si facevano pagare delle tangenti agli imprenditori per farli lavorare e naturalmente per prendere queste decisioni si facevano spalleggiare anche dai politici che contano, oltre naturalmente poi a modificare le carte in tavola in questi appalti e quindi, diciamo, facendo andare in maniera arbitraria i lavori appunto a queste aziende. La dama nera, dicevamo, la dama nera, perché utilizzare questa espressione che ha anche un che di misterioso e quasi di positivo? La dama è una ladra dell'ANAS, quindi, diciamo, sarebbe meglio forse usare queste espressioni a volte anche, no, da parte dei giornalisti. Però è questo, diciamo, che anche su Repubblica, lo ripeto, l'ANAS, la rete politica della dama nera, scrivono così i giornali. Altri titoli velocemente prima di andare sul tema della legge di stabilità. Il giornale fa una sintesi tra lo scontro tra magistrati e governo e il tema invece della legittima difesa, di quello che è accaduto a Vapri Odadda. Il titolo è sicurezza, legittima difesa dai PM. Due italiani su tre avrebbero sparato al ladro, la procura è in imbarazzo, ora i magistrati però minacciano anche governo e politica. Libero invece titola su questo, occhio al portafogli, il governo scheda le case sfitte. Una legge ordina di creare una banca dati con gli immobili dei privati non utilizzati da destinare ad un non meglio precisato recupero o riuso da parte dei comuni. Cominciamo a preoccuparci. Manovra, condono per immobili intestati a società di comodo, niente rate per il canone. Sulla manovra, ecco, sulla manovra La Stampa, per esempio, se la trovassi sarebbe già qualcosa, non la trovo, eccola qua, dedica il titolo principale, arrivano tagli alle regioni, canone passa la rata unica, ma il tema dei tagli alle regioni è importante, perché, andiamo a leggere, perché sono state pubblicate con l'invio a Bruxelles, insomma, i testi, finalmente si è detto, era una manovra solo di tweet, adesso ci sono i testi. Allora, intanto ci si domandava da dove venissero i miliardi dei tagli alla cosiddetta revisione della spesa, ma anche l'efficientamento. 8 miliardi di tagli in tutto, e questo è il punto fondamentale. Gran parte dei risparmi, scrive La Stampa, circa 3,4 miliardi, dovranno essere garantiti dai ministeri, circa 1,8 dalla riduzione della spesa nella sanità, solo 218 milioni dalla minor spesa per gli acquisti di beni e servizi. Vi ricordate il costo della famosa siringa che deve costare uguale in tutti gli ospedali? Non è possibile che i politici fanno sempre questo esempio, quelli di governo in particolare, ma anche quelli dell'opposizione. La siringa deve costare uguale. Non è possibile che una siringa costi 10 euro a Milano, a Palermo, e 1 euro a Verona. Però da questo famoso efficientamento della spesa di beni e servizi, la risparmi attesi sono 218 milioni su una finanziaria che vale 25 miliardi. In sintesi, la tabella dimostra che i tagli chirurgici ipotizzati dai commissari Guttgeld e Perotti, ma anche prima da Cottarelli, non è rimasto quasi nulla, sostituiti dai tagli lineari vecchia maniera. L'altra sorpresa riguarda le regioni, le quali, oltre a rinunciare a quasi 2 miliardi di aumento del fondo per la sanità, dovranno risparmiare altrettanti 2 miliardi, 1,8, per il rispetto del pareggio di bilancio. Vediamo invece come la vede il Sole 24 Ore, sempre in materia di legge di stabilità, e ricordandovi che alle 8:25 ascolteremo il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. I saldi finali della manovra, spesa ridotta di 2 miliardi, entrate di 18. Il testo arriva al Colle, ecco le novità sul fisco casa impresa. Naturalmente il Sole 24 Ore ha un elevato numero di pagine dedicato con degli approfondimenti a tutti i capitoli per quanto riguarda la casa, la TASI, la prima casa, le case in affitto, le case di lusso, i terreni agricoli, le imprese, confermati per esempio anche i bonus edilizi, questa è una cosa che interessa molto. E lo sconto mobili si fa in due. Leggiamo sul Sole 24 Ore: proroga di un anno per gli attuali sgravi su ristrutturazione edilizia, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e acquisto dei mobili. Sgravi che dal 1 gennaio si estendono anche ai gestori di case popolari. C'è poi un regalo di 4.000 euro alle giovani coppie, anche non sposate, per gli acquisti di mobili e arredi effettuati nel 2016. Per quanto riguarda le cifre complessive della manovra, sul Sole 24 Ore si legge: la manovra sulla spesa tra spending review ed efficientamenti vale 8 miliardi, con i 6 miliardi di maggiori spese per interventi espansivi il saldo è di circa 2 miliardi. Quanto ho? Ancora un minuto? No, non ce l'ho, più un minuto, abbiamo finito qua con per quanto riguarda la rassegna stampa. Allora, giornale radio, tra pochissimo rientreremo dopo il GR alle 8.15, 8.20, poi ci sarà l'intervista al ministro, al sottosegretario Baretta, e poi avremo anche Bobo Rondelli al telefono con noi, fresco del premio Tenco. A più tardi, a dopo, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Si può fare! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Eccoci qua, 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri interventi naturalmente al numero verde per commentare tutto quello che sentite, per parlare con noi, per giocare con noi. Milano Monterosa, come sempre è troppo presto il sabato per fare delle vere previsioni. Oddio, ci sono quelli che fanno le previsioni di giorni o settimane dopo, però infatti di solito sbagliano. Però sembra una bella giornata. Poi c'era folla, sono venuto in metropolitana, c'era già folla perché c'era la fiera del videogioco, quindi era già pieno. È vero. Di ragazzi e ragazze giovanissimi che andavano tutti alla fiera del videogioco, li ho invidiati moltissimo. L'ultima settimana di Expo anche, no? Si apre anche con questo weekend, chiuderà il prossimo weekend. I cancelli chiuderanno alle 17, giusto dirlo, perché dopo le 5 di pomeriggio non si entrerà più, quindi diciamolo, se qualcuno ha in mente di andare è dentro. L'ultimo giorno, sì, non si può entrare oltre quell'orario lì, quindi è giusto dirlo, perché sennò rischia di creare casino. Pensavo prorogasse a un certo punto, ma no, sono i regolamenti, tutta sta coda effetti, se no coinvolto tutto il mondo, devi chiamare tutto il mondo e dire: scusate un attimo, vorremmo prorogare di 3 settimane. Come siete messi voi in Corea? Com'è il padiglione del Giappone? Come state in Sudafrica? Sarebbe fantastico, tutto ciò sarebbe fantastico. Oh, allora, tra poco parleremo con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, un'intervista importante perché insomma i numeri della legge di stabilità sono stati appena freschi definiti, e poi c'è il tema delle slot machine. Cercheremo di capire se il governo vuol far cassa con l'azzardo più di prima, dopo aver invece preso il ministro Lorenzin, ma anche Renzi e altri esponenti, aver detto più volte: no, non si può far cassa sull'azzardo, anzi l'azzardo va limitato perché l'Italia ha un record in Europa e nel mondo negativo. Vedremo, faremo chiarezza anche sul tema delle slot machine. 800 24 00 24 se volete intervenire anche su questo, cari ascoltatori. Cominciate a chiamare da subito. E poi il gioco, giustamente come ricordavi, anche oggi giochiamo e giochiamo con... partiamo dalla notizia. Assenteisti. 35 arresti a Sanremo. I furbetti del cartellino sono stati ribattezzati, personaggi incredibili. Insomma, c'era uno che andava in canoa. E c'era uno che ha detto una cosa molto divertente. Gli hanno detto: ma perché lei non è andato a lavorare? Sì. E lui ha risposto: mi sono dimenticato che dovevo lavorare. E onestamente ci è sembrata una scusa oltre il plausibile, nel senso che va bene tutto, ma almeno inventati il gatto appeso alle tende, il gatto che ti è saltato in faccia, faccia, un parente defunto. Insomma, quello che vogliamo sapere da voi oggi sono la scusa più strana, più buffa che avete mai inventato o anche nella quale vi siete imbattuti. Perché tante volte uno magari va in un ufficio e c'è un simpatico cartellino che dice siamo chiusi per pesca. È presenti a Milano. Esatto. È presente la gag dei soliti idioti, quello che va davanti all'ufficio pubblico, c'è cioè la signora che fa vengo subito da lei, esatto, subito da lei, e poi giusto, in realtà va via. Ecco, scene di questo genere vi siete trovati di fronte in qualche ufficio pubblico, se ce le volete raccontare, oppure le vostre scuse più strabilianti? La più classica è quella di far morire un sacco di parenti. Io mi ricordo, esatto, a scuola, che a un certo punto mi dissero ascolti Gabardini, è il sesto nonno che fa morire, c'è qualcosa che non va perché i suoi non sono divorziati, quindi che problema c'è? 800 24 00 24. Anche oggi in palio due biglietti più il catalogo della mostra Palazzo Reale a Milano da Raffaello a Scile, quindi una bella occasione, non perdetela. Vai, cominciamo. Vogliono togliermi ogni cosa che ho, ogni cosa che ho, e dica loro tutto quello che so, tutto quello che so. Mi danno troppo, io rispondo di no, io rispondo di no. Mi tengo tutto adesso, prendo e non do, non do. Come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine, come una slow machine. E allora, come abbiamo già annunciato, tutta la verità sul tema delle slot machine, i soldi che il governo pensa di voler ottenere dall'azzardo. In settimana il Presidente della Repubblica Mattarella ha premiato addirittura con una onorificenza Maurizio Fiasco, che è Presidente dell'Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e sui comportamenti a rischio, con una onorificenza appunto al Quirinale in pompa magna. Però si è detto, mentre da una parte si premiano le persone che si occupano di questo tema e del tema della ludopatia, dall'altra il governo vuol far cassa aumentando le concessioni dei punti scommessa che sono in scadenza e che sembrava dovessero passare da 17.000 a 22.000. poi, come è successo anche su un altro argomento, c'è stato una retromarcia. Buongiorno al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, prima di entrare su questo tema, però le volevo fare un paio di domande, perché i numeri più generali, quelli macro della legge di stabilità, sono noti da pochissime ore, quindi mi sembra giusto. Intanto, il saldo complessivo è variato o è quello che era stato annunciato? Qual è il saldo? C'è un leggero aggiustamento, adesso io non ho qui il testo finale perché è stato consegnato al Presidente della Repubblica complessivamente, però le variazioni sono contenute, non c'è una variazione sostanziale dei 27 miliardi circa. Della Quindi siamo intorno ai 27 miliardi, benissimo. Sì. Un tema molto caldo in queste ore è quello delle regioni, perché c'è da un lato l'allarme della Corte dei Conti sulla tenuta dei bilanci delle regioni. Le regioni che sono allarmate sapevano già che avrebbero avuto una riduzione del fondo sulla sanità rispetto a quello che era previsto, cioè un aumento da 110 a 111 miliardi, ma erano previsti 113, quindi diciamo un meno 2 sul bilancio. Però ci sarebbe anche un altri 2 miliardi di tagli sui bilanci delle regioni, risparmi che il governo si attende da questa legge di stabilità, conferma? Ma guardi, la questione della sanità è più o meno la stessa dell'anno scorso. Il piano sanitario prevedeva incrementi e anziché operare altri tagli non diamo alle regioni, in accordo con loro, questo previsto aumento. Per quanto riguarda il resto, il problema riguarda il punto che lei ha toccato, cioè il fatto che ci sono dei buchi che sono emersi per una gestione delle risorse che doveva essere finalizzata a pagare i debiti della pubblica amministrazione, poi invece sono stati usati per spesa corrente, e quindi c'è un problema di saldare complessivamente questo passaggio. Quindi in effetti il problema che abbiamo è come con le regioni riusciremo anche nei prossimi giorni a definire meglio questo piano complessivo di rientro. Però c'è un obiettivo di 2 miliardi circa, si può dire questo? Sì, sì, diciamo si può dire, perché fa parte del quadro complessivo del rapporto con le regioni che è stato fatto prima e che continua, è un dato chiuso, ecco, francamente è un dato continuo. Ci lavorerete anche con le regioni. È vero quello che scrivono alcuni giornali, che invece diciamo il famoso costo della siringa, che deve essere uguale in tutta Italia, l'efficientamento della spesa, le uniche centrali di acquisto, eccetera, eccetera, da questo la voce da questo di risparmi sono solo sottolineo 218 milioni di euro per quanto riguarda la tabella, solo perché i commissari ha fatto bene a sottolineare il concetto di solo, perché realizzare risparmi che possono sembrare pochi da una certa leggendoli così, poi rappresentano sempre uno sforzo di sistemazione di molte cose. Noi stiamo facendo i costi standard sia per le regioni che per i comuni, che è esattamente la risposta alla sua domanda, cioè riuscire ad avere dei criteri che non sono la spesa storica, cioè chi aveva speso di più alla fine ci guadagna, no? Ma equilibrare base. Però molti si aspettavano, cioè ci si aspettava di più di questi 200 milioni di euro, si credeva che si potesse arrivare. Pensavo di risparmiare tantissimo. È l'esempio classico che fanno tutti i politici di governo ma anche di opposizione, il costo della siringa. Alla fine da questa cosa qua la voce sono quei 200 milioni. Prendiamone atto, insomma, pochi o tanti, poi è una questione di punti di vista. Complessivamente il taglio della spesa è cresciuto anche negli ultimi dati, siamo arrivati a 7 miliardi e passa di taglio spesa complessiva, quindi lo sforzo c'è. Poi è chiaro che non è un lavoro facile, però lo sforzo è evidente che si sta andando verso una direzione di risparmi, soprattutto delle spese inutili. Bisogna evitare di confondere il taglio soprattutto nella sanità, bisogna intercettare esattamente i punti di debolezza e i punti di spese di spreco, per non arrivare involontariamente o volontariamente a ridurre i servizi. Ma il commissario per la riorganizzazione della spesa, Perotti, è ancora parte della squadra, che lei sappia, visto che ha un rapporto diciamo preferenziale con Renzi, o queste voci di dimissioni in effetti No, sono girate, ma mi pare che sta saldamente nella squadra e come dire lo insieme a noi in squadra. Lo scopriremo nelle prossime ore. Senta Baretta, allora veniamo al tema slot machine, soprattutto prima slot machine, punti gioco, punti scommesse, perché sono due cose diverse. Un po' diverse. Sì, allora sui punti di scommessa, è giusto dire che ci sono queste concessioni in scadenza, erano 17.000, nella prima bozza si parlava di salire a 22.000, apriti cielo, il governo vuol far cassa dall'azzardo dopo averlo criticato in ogni modo, invece siamo scesi, è vero, nella stesura definitiva da 17.000 a quante concessioni? A 15.000. Allora facciamo chiarezza sui numeri se è possibile. Sì. 17.000 sono i diritti assegnati, gli effettivamente operanti sono circa 16.000, perché alcuni, per esempio sale scommesse ippiche, si sono ridotte in questo anno, ma sono 17.000 quelle possibilmente operative. Poi ci sono circa 5.000 cosiddetti irregolari, cioè quelli che sono lì tra il grigio, no? Non sono proprio a posto, e ecco che da dove nasceva il numero di 22.000, no? 17.000 legali 22. E 5.000 irregolari. Però nonostante questo numero, che avrebbe portato al mercato complessivo, la scelta che abbiamo fatto, che io considero corretta, è quella non solo di aderire al massimo del mercato, ma addirittura di ridurlo rispetto al potenziale attuale, quindi nemmeno i 17.000, non i 22.000, nemmeno i 17.000, siamo scesi a 15.000. Quindi 15.000 comprese, diciamo, le sanatorie di queste concessioni irregolari, staranno là dentro nei 15? Se vogliono sì, se non vogliono li perseguiremo in quanto irregolari. Ok, perfetto. Senta, e invece sul tema delle slot machine, perché lei diceva è un tema distinto, l'Italia sono però... Sono cose diverse, scommesse sono una cosa, le macchinette, per capirci in gergo, è un'altra partita, altrettanto delicata, per alcuni versi di più. Esatto, noi ne abbiamo oltre 400.000 secondo i numeri che ho io, ma insomma ci sono vari numeri, varie stime. Più o meno è così. Ecco, una ogni 140-150 abitanti, è un record. Sono troppe. Conferma, ma si interverrà anche su questo? Sì, Noi abbiamo un piano che abbiamo messo a punto perché il Parlamento ci ha dato la delega per risistemare il settore. Il primo obiettivo è ridurle di circa 100.000. Questo pensiamo di farlo in quando? Più modi. Com'è? E in che tempi, mi scusi? Appena diciamo questa proposta, che adesso in Senato si sta avviando la discussione, dovesse diventare operativa di legge. Lo possiamo fare in più modi. Il primo, ad esempio, ampliando il numero dei metri quadrati per ogni distanza tra una macchina e l'altra. Secondo, stabilendo un numero massimo 6 per ogni locale, indipendentemente dalla dimensione. E poi la terza cosa molto importante è quella di collegarle tutte al totalizzatore centrale. Oggi ci sono molte macchinette che non sono collegate, quindi non sono perfettamente controllate. Questo è un tema su cui c'è stata anche un'inchiesta, c'è stata anche un'inchiesta della magistratura. Rimarrà tutto all'Agenzia dei Monopoli o potrebbe passare, come qualcuno dice, direttamente a voi, cioè al Ministero dell'Economia? È allo studio questa ipotesi? L'Agenzia dei Monopoli è esattamente un'agenzia del Ministero e avendo competenza come l'Agenzia delle Entrate, come l'Agenzia delle Dogane, ognuno deve una competenza, il controllo politico è assicurato, questo è fuori discussione. E la linea di fondo che il governo sta approntando è quella di ridurre l'offerta. Senta, ancora una cosa, perché chiariamo un aspetto, no? Non è una crociata, almeno per quanto riguarda noi giornalistica, contro il gioco d'azzardo, è una presa d'atto di una proliferazione che anche secondo sistema gioco di Confindustria, che ha molte di queste concessioni, c'è stata in questi anni. Loro addirittura in una indagine di un paio di anni fa parlavano di 790.000 giocatori problematici. Il ministro Lorenzin, il Ministero della Salute, ha accertato 12.000 ludopatici in Italia. Parliamo di gente che si rovina sé e le proprie famiglie. Qualcuno l'aveva definita la tassa sugli stupidi, quella del gioco d'azzardo. Comunque la si voglia vedere, c'è un problema che sta crescendo in Italia. Gli introiti complessivi in manovra, però, quali sono previsti? Cioè, da questa voce il governo più quanto ha messo a budget quest'anno? Possiamo dirlo? Abbiamo messo in budget due voci, una da 500 milioni per l'aumento della tassa e una da altrettanti, più o meno 500 milioni, dal rinnovo delle concessioni. Saranno più care le concessioni? Perché essendo di meno un aumento della percentuale, quindi diventano obiettivamente un po' più care, sì, proprio anche perché siccome le riduciamo. Il problema che bisogna non dimenticarsi mai è che dietro questo c'è regolare il gioco pubblico e quindi anche ridurre l'offerta, ma non dimentichiamoci mai che bisogna combattere quello illegale, che è lì pronto ad aspettare che ogni nostro, diciamo, incertezza approfittarne. Quindi la battaglia è su due fronti: difendere la gente dai rischi del gioco esagerato, della ludopatia, eccetera, e contemporaneamente combattere la malavita su questo settore. Anche perché la cosa più importante mi sembra appunto controllare, nel senso che almeno se qualcuno gioca, che dei soldi entrino allo Stato e non che vadano a qualcun altro. Esatto, sì. Tenga conto che su 84 miliardi, una cifra impressionante, che gli italiani giocano, ovviamente il 75-80% ritorna in vincita, e lo Stato ha un risultato importante, bisogna saperlo, sono quasi 9 miliardi le entrate dal settore dei giochi legale, pubblico, che arrivano allo Stato. Però detto questo, è evidente, noi ne siamo convinti, che c'è stato negli ultimi anni un eccesso anche sul gioco pubblico, per questo vogliamo regolarizzarlo. Il primo segnale è la riduzione del bando delle scommesse, poi c'è anche il tema della pubblicità, con le macchinette e anche con le sale, perché l'altro punto, se posso, che è il tema delicato del rapporto con gli enti locali, è anche a regolare le sale gioco. La mia proposta è quella di trovare un accordo con le regioni e gli enti locali, stabilendo, ad esempio, faccio un'ipotesi, se ne può discutere ovviamente, un criterio che un rapporto tra il numero degli abitanti adulti e il numero delle sale possibili. La dislocazione poi la decidono gli enti locali, non la decide certo il governo. Io ricordo solo il numero verde 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete intervenire su quello che avete sentito per quanto riguarda le notizie appunto sul il tema dell'azzardo e la legge di stabilità. Poi c'è anche la questione della pubblicità, sottosegretario, perché anche qui c'è una legge che chiede di vietare ogni forma di pubblicità. ovunque, sì, come si è fatto col fumo. Tutte le proposte di legge che sono oggi presenti in Parlamento, sia quelle singolarmente sull'aspetto pubblicità, sia quelle che affrontano l'intera riforma del settore, affrontano questo argomento. Guarda, io voglio essere molto sincero, quando mi sono cominciato a occuparmi del problema mi sono reso conto che la questione della pubblicità è molto controversa, perché in Europa non esiste una legislazione omogenea, per esempio sui tabacchi la legislazione europea. Beh, però essendo noi proibita, quelli che hanno il record in Europa potremmo essere forse, esatto, quelli infatti, che sono i primi che ci provano. Io sono arrivato alla conclusione, ed è la mia proposta, che si può abolire la pubblicità. Bene. Lo Stato italiano può prendere questa decisione con tranquillità. Io credo che si potrebbe vivere tranquillamente senza. Le faccio sì, una domanda che, pubblicità, sì, che fosse una domanda stupida, ma lei prima diceva da 400.000 macchinette vogliamo toglierne un 100.000, quindi scenderanno del 25%. Quello che mi chiedo, anche gli introiti per lo Stato, quindi si ipotizza che scenderanno del 25%? Non proprio del 25%, perché poi si può benissimo alzare, diciamo, contrattare con i concessionari che gestiscono, come facciamo con la legge di stabilità, un aumento sia pure parziale, però che lo Stato debba mettere in conto una riduzione delle entrate se decide di ridurre l'offerta di gioco, questo è poco ma è sicuro. No, perché mi chiedevo questo, perché giustamente si parla sempre delle macchinette, del pericolo, però siamo disposti a limitare, non so, gli esami medici piuttosto che mettere 18 o 20 accise sul gasolio, però sulle macchinette invece non si può aumentare le macchinette, ma quando entreranno meno soldi per le macchinette lo Stato dovrà aumentare le tasse da un'altra parte? No, beh, probabilmente può anche ridurre altre spese, no? Ci stanno lavorando. Continuare sì, sulla lavorando, linea che stiamo adottando in della generale. Della spending review. Va sì, bene. Della spending review, ma anche nel stesso settore del gioco, no? Si può sì, benissimo ridurre spese in quel settore lì. Per esempio, tutta la parte pubblicitaria, una parte la fa anche lo Stato, no? Cioè, sì. Attraverso il gioco del lotto sì, altre, quindi diciamo non è necessario che la riduzione di un'entrata che comporti in automatico un aumento delle tasse. Ah certo, perché magari ci sono meno macchinette ma più persone giocano al lotto invece che giocare con le macchinette. Sì, grazie, ci fermiamo qua, sì, sottosegretario. Grazie per l'altro nella vita che portano sempre magari altri consumi e aumenta l'IVA e migliora lì. Certo. Non c'è un automatismo. Grazie per essere stato con noi, buona grazie giornata. Mille, buona giornata. Buona giornata. Siamo andati lunghissimi, c'è la pausa, torniamo tra poco, 00:24 00:24 e vi aspettiamo, cari ascoltatori, anche con le vostre scuse, le vostre balle, scuse strabilianti, quelle che avete inventato voi, quelle che vi siete trovati di fronte quando siete stati in un ufficio pubblico che magari era chiuso, non ne so. O qualunque tipo di scusa, non solamente negli uffici pubblici. Tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Cari ascoltatori, a ridosso di un'altra pausa che ci sarà tra pochissimo sul traffico, però perché sentiamo. Siamo stati lunghi. Siamo stati lunghi col sottosegretario Baretta, c'erano troppe cose da dire sulla legge di stabilità e con Baretta non c'è niente da fare. Franco da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signori. Buongiorno. Allora, io sono un quarantenne che gioco limitatamente alla SNAI, le schedine, ma anche a... E vi garantisco che ci sono dei minori, questo per arrivare a un qualcosa che adesso vi dico, sì, ci sono dei minori che danno probabilmente la schedina agli adulti diciottenni e vanno a giocare. Però io ho sentito quello che le domande che avete fatto al sottosegretario, sì, ma mi chiedo, allora, prima non ci credo, perché in Parlamento si condonano 90 miliardi sul gioco d'azzardo, il governo probabilmente condona. Poi c'è 1 miliardo di entrate previste nella legge di stabilità. Questo lo ha confermato Baretta. Sì. Come fanno a ridurre le concessioni, come dice il sottosegretario, da 17.000, non più 22.000, ma 15.000, dove li vanno a prendere? E lo poi, ha detto che aumenteranno i costi un po' di queste concessioni. Io non so se i conti tornano, questo è quello che ha risposto lui. Gliel'ho fatta anch'io la domanda. Beh, però Franco, volevi finire? Altra cosa? Io non ci credo e secondo praticamente vorrei sapere su carta canta questo discorso della diminuzione, perché un'altra cosa che non si dice, il gioco d'azzardo praticamente fa le famose pubblicità che lo Stato mette, ecco, si dovrebbe intervenire lì ad aumentare le tasse, non dove vai a prendere il miliardo? No, in che senso lì ad aumentare le tasse sulle pubblicità? Allora, chi paga al servizio pubblico e il resto la pubblicità sui giochi non dovrebbe pagare il 30% tipo, ma dovrebbe pagare il 70%. Cioè lei dice che la pubblicità dovrebbe costare di più, la pubblicità del gioco d'azzardo. Ma in che senso? La pubblicità nella TV pubblica? Credo che sia questo che sta dicendo, ho capito bene. Sì, questo. Ma guardi, si sta discutendo addirittura di eliminarla la pubblicità ovunque, c'è una legge in discussione che è sostenuta in modo bipartisan dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, da una parte del PD e da altri parlamentari sparsi. Il sottosegretario Baretta ha detto che lui personalmente è favorevole, vedremo. Lei lancia questa proposta, diciamo far aumentare il costo della pubblicità sull'azzardo per chi vuole investire in sponsor sulla TV pubblica, però sarebbe un modo per fare ancora più introiti sempre sullo stesso argomento, e invece mi sembra che l'idea sia quella di Baretta, forse anche di questo governo, se le concessioni sono scese da 17 a 15.000, di andare verso una limitazione del fenomeno, non una espansione ulteriore. Ci rifermiamo direi per il traffico, a tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni, e sono rimasto. Allora, intanto un annuncio di servizio, perché dopo il giornale radio sentiremo al telefono Bobo Rondelli, grandissimo cantautore, attore, poeta. Quindi se avete delle domande mandatecele sui nostri social, che direi che abbiamo un problema di SMS al momento, non quindi funziona, se ci state mandando degli SMS noi non li stiamo leggendo. Quindi scriveteci sui social, si può fare trattino radio 24 su Facebook oppure @sipuofare24 la pagina di Twitter, i nostri Ale Maurizi e il mio @CarloGabardini. Ah, ma avrete già capito che stiamo parlando di un tema che ci sta molto caro, un tema molto caro. Allora, nella settimana nella quale la Liguria lancia l'ennesimo piano casa, un rilancio del cemento è stato detto, ma insomma metrature più metrature, strade, parcheggi in una regione già diciamo molto fragile, per usare un eufemismo, dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico, la Toscana invece se ne arriva con un'altra notizia: 100.000 orti per giovani agricoltori. Ne parliamo con uno che di orti se ne intende. Lui è il gestore di un orto sociale a Firenze che si chiama Orti Dipinti e che fa furore, sta andando alla grande. Giacomo Salizzoni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. In realtà from Bologna. From Bologna, svegliamo l'arcano, perché ci sente un po' anche parlando, sciorbo, sì, e quindi non sono riuscito ancora a toglierlo. Uno potrebbe dire che ci fa un bolognese a Firenze, ma questa è un'altra storia. Vabbè, sono anche vicinissime Bologna e Firenze, sì, insomma, in siamo tutti italiani. In effetti sì. Io la prima cosa che ho pensato, poi parliamo di Orti Dipinti, questo esperimento importante che sta andando molto bene a Firenze, più di un orto urbano, un orto sociale. Dove li troveranno 100.000 orti? Un accordo tra l'assessorato della Regione Toscana e i comuni toscani. Sono tanti 100.000. Sì, sono un po' tantini, infatti bisogna capire innanzitutto se è una questione solo di propaganda o sono veramente 100.000. Perché su questa cosa degli orti spesso si fanno annunci, gli orti per i giovani. Anche perché abbiamo sentito adesso il sottosegretario all'economia che diceva che voleva eliminare 100.000 slot machine. Forse sono esattamente degli orti grandi come una slot machine in realtà, sono quelli lì, sono le stesse 100.000. Magari gli slot machine proprio non ci servono. E in realtà credo che ci sia un po' di propaganda, ma la volontà è sicuramente buona e sicura. Ecco, ma sì, si parla comunque di zone urbane. Tempo agricolo che vorrebbero appunto essere perché a volte sono quegli orti ai bordi delle tangenziali delle strade che si vedono, e uno poi si domanda: ma saranno buone le cose da mangiare prodotte lì o no? Perché Dunque, teoricamente bisognerebbe considerare soprattutto l'inquinamento della terra più che dell'atmosfera, sì, perché okay, questi dipendono abbastanza bene. Chiaro che stare a coltivare le zucchine in una arteria di traffico non è il migliore dei modi, però diciamo che se uno analizza la terra ed essa è buona, a questo punto può anche permettersi di coltivare e poi lavarle bene. Se ne può infischiare dell'aria, l'importante è la terra. Bene, già questa è una informazione. Giacomo, invece orti dipinti che cos'è? Orto dipinti, come dicevi giustamente tu, è un orto sociale un po' più innovativo. Noi amiamo definirlo il Community Garden 2.0 perché abbiamo letteralmente rubato dalle esperienze di tutto il mondo questo genere di esperimenti sociali e di riqualifica ambientale, e lo stiamo in qualche modo cercando di portare avanti con una visione appunto abbastanza ambiziosa, quella di creare non tanto un orto sociale che in fondo già esiste, quanto quello di creare una specie di scuola educativa per bambini, ma anche per adulti ovviamente. Chi sono i fruitori degli orti dipinti? Cioè gente di una certa età o davvero anche ragazzi e bambini che riuscite a coinvolgere? Devo essere sincero, i signori di una certa età vengono un po' a mancare, ci sono bambini e giovani. Si sono stufati dell'orto gli anziani, dai, l'hanno fatto per tutta la vita, esatto. Adesso basta. Anche perché questi orti sociali sono sempre dati a loro, invece ora bisognerebbe cambiare il paradigma e bisognerebbe dare la priorità ai bambini. Ai giovani, ai ragazzi. Bravo. Anche perché non ho niente contro gli anziani, però io preferisco vestire in un bambino piuttosto che in un anziano. Giusto. Ovviamente. Beh, giusto, insomma, adesso non trascuriamo l'anziano. Ma però anche perché si possono fare coltivazioni più per tutti, esatto. Orti per tutti, più orti per tutti. Noi in realtà abbiamo il giornale radio che incombe, quindi ti salutiamo, Giacomo Salizzoni, Orti Dipinti di Firenze. Grazie. Grazie mille. Per essere stato in bocca al lupo, magari chissà ci possiamo risentire. Sì, che noi siamo degli appassionati di orti e orti in città. Un'esperienza quindi così bella. Ti sentiamo per tutti e 100.000 gli orti. Grazie. Allora, tra poco con Bobo Rondelli. Poi va a finire come si annunciano le cose e poi magari lui non risponde al telefono. Chi lo sa? Chi lo sa? Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone. Vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Passo oggi a prenderti a scuola, con questo motivo che va. Vediamo se per una volta ti piace quando canta papà, che dici fa canzoni tristi e non si sa che c'è da dì. Questa non vuol dire niente, l'ho solamente scritta per te. E dopo andiamo a farci del male a mentola finché ci va, e poi finiamo i soldi che ti sono rimasti nel bancomat. E se sarà mia mamma, amorizza papà, abbraccia bene la cintura. E come per incantesimo la voce di Bobo Rondelli si materializza, spero, dall'altra parte della linea telefonica. Bobo? Pronto, sono io. Eccolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, è proprio quello che bisogna dire, perché avete fatto tardi ieri sera al premio Tenco? Io sì. Possiamo dire che si sente? Si sente anche per radio? Aspettiamo a dirlo, però si potrebbe sentire. Bobo, abbiamo scelto questa canzone anche perché stamattina chiediamo agli ascoltatori le scuse più straordinarie. La notizia è quella degli assenteisti, uno che ha detto, quello di Sanremo, no? I dipendenti assenteisti, uno ha detto mi ero dimenticato di andare a lavorare. Questa canzone qua, Autorizza papà, in realtà Autorizza papà diventa una scusa per fare tutte le peggio porcherie. Ed è dedicata a tuo figlio. Sì, va bene, però non credo sia la scusa per fare porcherie. Insomma, questo è un rapporto personale tra me e mio figlio. Vabbè. Scusa, è entrata a gamba te. Beh, sembrava di aver sentito che andavate a McDonald's a mangiare. È un bisogno disperato di un padre di chiedere quasi aiuto. Faccio tutto quello che vuoi, perché insomma riconosci l'affetto e l'amore per me. Purché tu stia con me, io ce n'ho una di 4 anni e comincio a capire. Senti, ma invece tu ti è capitato di inventare delle balle stratosferiche per qualche motivo, delle scuse? Raramente è successo, di verità, vabbè, con la compagna, insomma, questo può succedere, però proprio per difesa personale, in genere. Per difesa personale? In che senso? Sì, le bugie si dividono tra quelle, insomma, sì, appunto, per difenderti, allora sei costretto a dire una bugia, insomma, se ne hai combinata una. E per esempio mi viene a mente comunque una bugia proprio a proposito questo di mia figlia, che era bambina, che gli partì quella scheggia che parte quando siamo bambini, che si muore, no? Quindi sì, partì questo senso disperato dell'idea di morire, no? Allora io gli dissi che noi saremmo rimasti vivi perché c'è la possibilità di bere un'acqua blu che ci mantiene in vita, e quindi ero sempre costretto a cercare delle bottiglie quelle blu. Che avessero, insomma, non quelle trasparenti bianche, ma blu, così sei, lei si sei convinceva. Stato molto bravo a scegliere comunque un'acqua blu e non con un colore impossibile da trovare, sennò eri veramente rovinato. Vabbè, c'è le bottiglie, quelle blu. Le bottiglie. Sì, certo, quindi, certo. Lei si convinse, insomma, che noi saremmo rimasti immortali. Ti hai inguaiato parecchio, però, perché poi dopo di lì a svelare invece la fine della storia. Ma mi interessa come si dividono le bugie. Stavi dicendo, le bugie si dividono in difesa personale, che mi sembra bellissima. Cioè, se ne hai combinata una, devi difenderti. È vanità. Sono quelle di vanità. Ah, giusto. Tipo? Io non ne ho bisogno. Vabbè, a una donna gli dici che sei qui, sei là, sì, hai il conto in banca pieno, insomma, queste cose utili per arrivare in fondo, insomma, allo scopo. Sì, ecco, esatto. E la parola non è usata a caso. Bobo, però, secondo te, questa questione qua dell'assenteismo dei dipendenti dei pubblici di Sanremo, 35 arresti, questo che ha detto mi ero dimenticato di andare a lavorare, e un altro che andava in canoa e poi metteva sui social i tempi che aveva fatto durante la navigazione, e giustamente qualcuno ottimo, gli detto, rapidissimo, uno dice ma insomma vai in canoa a lavorare. Ma questa roba, secondo te, ma è la casta, come si usa dire adesso, oppure sono semplicemente degli italiani irresponsabili, proprio sbracati, senza etica, o non? Sì, secondo me non si rendono conto che comunque avere un lavoro in questi momenti anche importante va rispettato, con chi proprio è disoccupato, non ce l'ha, e quindi va rispettato proprio il lavoro, ecco, perché vedi. È giusto anche punire, alle volte, insomma, quelle punizioni però che quasi come a dare l'esempio e far passare poi da delinquenti è anche un po' troppo, no? Posso anche capire chi in un periodo magari è fuori di testa e magari si inventa poi delle scuse, appunto, in canoa, no? Sì, no, sono d'accordo con te, che forse non è esattamente è pura disonestà, esatto, però, insomma, quello anche proprio poi di farne capri espiatori, insomma. Sì, non tutti i dipendenti pubblici, naturalmente, adesso, se no, è chiaro, no? Il giorno dopo uno va a bere il caffè e pensa, ma adesso magari qualcuno mi vede, mi denuncia, uno può andare a bere il caffè durante il lavoro. Secondo me alle volte diventano i piccoli capri espiatori utili anche a far vedere comunque che c'è una giustizia, insomma, i pesci grossi spesso non saltano mai fuori, ecco. Senti, ma cosa hai cantato ieri sera? Perché era una serata dedicata a Guccini, al premio Tenco, vero? Ho cantato una canzone di Guccini, sì. Cosa ti hanno fatto? Hai scelto? Ho scelto L'Avvelenata, sì, perché la canzone L'Avvelenata, un capolavoro. Ma se io avessi previsto tutto questo? Sì, quella lì, anche perché quando era a scuola, insomma, era utile per conquistare le ragazze. Sì, si beccava, e magari si beccava con Guccini. Sì, beh, erano altri tempi. Altri tempi. Adesso con cosa no, si beccherà? Non lo so. Tua figlia e l'avvelenata, ecco. Poi. Le due. Io avrei preferito Don Bachi, perché Don Bachi sono quattro parole e non c'è da studiare. Bravo, anche perché la locomotiva le prendevi per sfinimento, è lunghissima. Sono 13 minuti. Sono 18 strofe. Quindi. Ma le donne di quel tempo piacevano, insomma. Si struggevano, erano struggenti. Invece adesso chissà con cosa si conquista. Però l'altra volta quando ci siamo sentiti io avevo detto, guardate che Bobo Rondelli in Toscana su Spotify era più scaricato di Jovanotti. E tu hai detto, allora è tutto finito. Cos'è che... hai commentato una cosa del genere, vabbè, quindi hai cantato L'Avvelenata, una... Ti dissi che è un brutto segno perché nessuno compra il mio disco ma lo scarica, ecco. Il Jovanotti non è in classifica perché se lo compro. Ah, ecco, no, ecco. Sto scherzando, ma lo conosci Lorenzo? Vi siete conosciuti? No. Vabbè. No, ma francamente conoscere gli uomini non ti interessa, che... ottima no, fantastico. Se mi dici Letizia Casta, ecco, purtroppo non la conosco. Gli uomini invece delle donne, sì, certo. Non avevo capito, pensavo che fosse conoscere gli artisti invece che ascoltarli. Carlo, che tu adesso dovresti una dire qualcosa a favore delle conoscenze tra uomini, ma no, vabbè, mi sembra che a posto così, va a posto così. Senti Bobo, noi tra l'altro, cioè io personalmente vorrei fare con te una rubrica che non esisterà mai, però io me la sono immaginata così, come dire, pensieri in riva al porto potrebbe essere, perché in riva al mare, tu sei di Livorno, è facile, il mare è poetico, è bello. Spesso ho dei pensieri, insomma, che cerco di... uno, quello di qualche giorno fa, per esempio, era ho raggiunto la pace del senso. In che senso? Non dei sensi, del senso. Del senso. Del senso. Dare un senso alle cose. Ecco. Ho raggiunto la pace del senso. Bella, questa qua è bella. Potrebbe essere il primo pensiero in riva al porto. Perché... abbiamo fatto la puntata zero di questa puntata nuova zero. Rubrica. Voglio però aggiungere una cosa, un elemento. Perché in riva al porto? Io mi piace questa cosa. Perché la città portuale, la città dove si lavora, dalla città degli ex operai forse del porto, non lo so, perché ci sarà disoccupazione, purtroppo temo, anche a Livorno. Tutto questo per arrivare a dire cosa? Che in una tua canzone operai faceva una rima straordinaria che soltanto tu potevi immaginarti, con Hawaii. Va bene, nella città di Livorno comunque c'era una vecchia idea che le Hawaii fossero il paradiso, no? Sì. Oggi magari c'è Tenerife, le Maldive, ma nella mia infanzia proprio la Hawaii era l'immaginario del viaggio di piacere, del viaggio di fuga anche, le Hawaii, quindi suonava bene con gli operai, tutto lì, ecco. A volte, per esempio, se pensi a Paolo Conte, sì. Sandali, Bartali, no? Sì. In realtà io penso Conte sia più vicino proprio alla figura di Coppi, anche per la sua, insomma, per la sua storia, anche, no? Sì. È considerato immorale perché è sposato, si innamorò, sì. Vedo più vicino a Conte Coppi, certo. Però in realtà che rima ci fai con Coppi? Quindi Sandali, Bartali. Beh, però fare operai con Hawaii soltanto tu. L'abbiamo amata. Ma senti, a proposito di Livorno e porto, soprattutto, perché mi sembra che proprio riguardo alla questione del porto, la giunta di Livorno ha votato contro il suo stesso sindaco, ovvero la giunta del 5 Stelle contro il sindaco 5 Stelle. Cosa pensi veramente di questo sindaco 5 Stelle che avete a Livorno o comunque della giunta? Mi potessi chiedere tutta la discografia di David Bowie, ma in realtà non sono, diciamo, pagato per questo, no? Giusto. Devo dire la verità, per parlare di politica è giusto essere pagati, perché in genere i politici parlano, non fanno niente, vengono pagati, quindi per cui perché dovrei parlare gratuitamente. però era sapere il tuo percepito nel momento che vivi a Livorno e hai una giunta 5 Beh, Stelle, comunque, in generale che cosa pensi dei 5 Stelle? Ma però va benissimo la risposta. Era una risposta anche quella. Va bene Bobo, buon viaggio, noi ci salutiamo qua, grazie per essere stato con noi, per averci espresso i tuoi pensieri in riva al porto, a presto. A presto. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. E chiediamo scusa ai colleghi del traffico perché l'abbiamo fatti aspettare. Traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. si può fare. Cronache da un paese migliore. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena sentito è For What It's Worth dei Buffalo Springfield, che è la canzone segnalataci dall'ascoltatore Stefano, che ce l'ha segnalata su Facebook. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, sia che voi siete dei cantanti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori. Trovate delle canzoni che secondo voi esplicano bene il concetto di Si può fare, allora vi chiediamo di segnalarcelo. Lo potete fare sui nostri account social, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sull'account Twitter chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Potete anche segnalarci solo canzoni di Bobo Rondelli, per esempio, per un periodo, e noi manderemo in onda solo canzoni di Bobo Rondelli e saremo felicissimi. Allora, cari ascoltatori, adesso riprendiamo anche il filo dei vostri interventi al numero verde 800 24 00 24. Questa mattina siamo partiti da un'intervista con il sottosegretario all'economia Baretta sui numeri della legge stabilità appena inviata a Bruxelles, quindi i numeri sono più o meno quelli confermati, 27 miliardi eccetera eccetera, e sul tema delle slot machine avete sentito da un lato e dei punti scommessa dall'altro, che verranno ridotti da 17 a 15 mila, poi l'annuncio di una riduzione a 400 a 300 mila del numero delle slot machine, ma questo di là da venire. Gli introiti però in legge di stabilità aumentano, gli introiti dall'azzardo più un miliardo complessive di attese di entrate fiscali. Da qui lo scetticismo, diciamo così, di molti ascoltatori, ai quali oggi chiediamo anche le scuse più strane che vi sono trovati di fronte in un ufficio o pubblico, che avete inventato voi quando dovevate giustificare una vostra assenza o qualunque vostra mancanza. Andiamo con Luigi che chiama da Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo, mi è successa questa cosa: dopo un anno che avevamo ricevuto una multa e non l'avevamo, insomma, tenuto il bigliettino che l'avevamo pagata, mi arriva un sollecito da un vigile del nord. Io che senso, senso un vigile del nord? Di un comune del nord Italia, ah, no? Va bene. La zona dove abitiamo, succede che non è Bergamo comunque, e succede che questo vigile ci dice: ah, guardi, lei deve, se ha ricevuto il bollettino deve pagare sicuramente perché il computer non sbaglia. Noi un po' presi l'agitazione. Questa sembra un po' come quella di prima: mi sono dimenticato di andare al lavoro. Cioè, è una scusa che autorizza tutto. Che vuol dire il computer non sbaglia? Esatto. E il vigile dice: no, il computer non sbaglia. Però scusi, scusa Luigi, sì. Tu non avevi più la ricevuta, e questo è un guaio. Non avevo bisogna la ricevuta, ma per fortuna il pagamento era stato fatto mezzo bancario. Il pagamento in banca c'era e non lo ricordavamo. Cosa è successo? Dopo, insomma, un po' di insistenza, ci siamo un po' insomma dispiaciuti, e prima di pagare una multa di 300 euro gli si disse: guardi che noi vorremmo pagare e non ci ricordiamo se è stato pagato. Un anno è passato, quindi poteva anche dimenticarsi. Poi noi siamo abbastanza bravi a prendere multe, però vabbè. Questo è un altro problema. Cosa è successo? Morale, dopo una piccola discussione al telefono gli si dice: vabbè, noi pagheremo, però ci divertiremo a raccontare su internet questa cosa, nel senso che non ci va bene. E il vigile sa cosa ti dice? Ti dice: ma guardi, il computer non sbaglia, e poi io dovrei cercarla in tutti gli scatoloni, non ho proprio tempo di vedere se avete pagato o meno. Questa è peggio dell'altra. Però scusi, vabbè, ho chiamato il giorno dopo e dopo che gli avevo detto che avrei cercato su internet, io intanto il bonifico l'avevo trovato nel pomeriggio, quindi sì, gli avrei detto appunto guardi cosa ha pagato, e il vigile dopo che aveva sentito che avevamo raccontato su internet si era adoperato, ma si vede svuotato tutti i suoi scatoloni e trovò la multa e quindi niente, non si pagò due volte e tutti vissero felici e contenti, meno male. La storia è perfetta perché è veramente il computer non sbaglia, nel senso che hai usato internet per risolvere un problema, e quando internet serve veramente, cioè la minaccia di dire racconto su internet che tu non hai voglia di andare a ricercare la ricevuta che io ho già pagato e quindi mi stai chiedendo di pagare altri 300 euro, improvvisamente la ricevuta è stata trovata, quindi mi sembra molto bella questa storia. Grazie. Beh, allora lo candidiamo intanto per il nostro gioco perché è la prima risposta utile. Il computer non sbaglia. O poi non posso guardare in tutti gli scatoloni adesso, scusi, cioè, ho altro da fare. Cosa, per esempio? Manuel da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io allora le dico questo, io innanzitutto mi chiamo Manuel da Venezia e sono praticamente responsabile di un'associazione di autoaiuto dei familiari praticamente dei giocatori praticamente d'azzardo, sì. Associazioni praticamente non profit che hanno il compito appunto di assistere i familiari dei giocatori. Ecco, io volevo dire questo, si parla tanto molto spesso di ludopatia, dei famosi introiti che esponenziali crescenti, sì, dello Stato, però non si parla, ad esempio, si parla molto poco degli effetti appunto della ludopatia di famiglie che vivono in condizioni catastrofiche a causa praticamente di questi giocatori che si giocano. Sono state tutto. Fatte un po' di inchieste, ho visto qualcosa alle ieri. Sono state fatte un po' di dichiarazioni. Oltretutto, la cosa che mi fa sorridere tantissimo che non si guarda praticamente l'altro aspetto. Allora, se da un lato sono è innegabile, sono cresciute i locali praticamente dove si gioca. Le sale gioco, sì. Esatto, famose sale gioco e sono aumentate le slot machine che ormai si trovano dappertutto. Ecco, non si parla dell'effetto contrario, nel senso che se lo Stato ha maggiori introiti, i comuni e le regioni invece che devono offrire dei servizi per le persone affette da ludopatia devono spendere molti soldi, per cui da un lato entrano e dall'altro escono per poter aiutare le famiglie e non solo, anche i giocatori. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Vabbè, visto che lei si occupa anche di questo, insomma, immagino che chi è il profilo tipo della persona che si fa aiutare da voi, ludopatico? A parte, immagino che non sia facile agganciarli, perché saranno un po' come gli alcolisti, che non vogliono ammettere di essere malati. Ecco, sì, infatti, anche perché praticamente si arriva a dover toccare il fondo. Toccare il fondo significa o arrivare praticamente a tentare di farsi fuori, tanto per capirci, sì, oppure praticamente essere veramente sul draft, arrivare in una situazione in cui proprio non c'è un identikit. Ecco, l'identikit non esiste più. Una volta praticamente era la persona di basso livello culturale, adesso non c'è più, nel senso che adesso il giocatore tipo può essere il ventenne come il cinquantenne, l'ottantenne, il bancario come lo studentello. Ancora, diciamo, diminuire i punti gioco e il numero dello slot machine, magari relegarle in alcuni casinò o in sale gioco, cioè diminuire l'offerta, sì, potrebbe, quello che si spera, potrebbe agevolare la lotta alla ludopatia, quindi diminuire le tentazioni, aiuta, oppure chi proprio malato se lo va a cercare comunque? Beh, guardi, le dico questo, che quando il giocatore arriva a certi livelli se lo va a cercare in qualunque caso. Ovviamente minori sono le possibilità di trovare queste macchinette, le tentazioni, sì, esatto. Io credo questo, poi, sì. Ecco, poi c'è anche da dire un'altra cosa, se venisse fatta minore pubblicità, perché in qualunque situazione, in TV, per radio, su internet, sui telefonini, dappertutto compare la pubblicità appunto per queste sale giochi, e questo onestamente non favorisce sicuramente, soprattutto il fenomeno è crescente, e questo lo dico anche perché ne ho dati certi, è crescente nei giovani intendo anche ragazzi dai 16 ai 25, quindi giovanissimi anni. E lì c'è ancora di più da preoccuparsi. Grazie Manuel, buona giornata, grazie, ciao, mille, ciao, buon ciao, sabato ciao. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. fare. Cronache da un paese migliore. Per sempre supplente, mi vogliono tutti bene. Persino i cattivi non scontano mai bene. Arrivo e saltello e grido sono bello. Mi vesto di giallo e mentre parlo ballo. Vabbè, oggi delirio musicale con il nostro Andrea Piana. Ci siamo divertiti a trovare questa supplente per sempre in rete, perché in effetti stiamo la parlando notizia è quella. Di questo, di supplenze. Oggi c'è una giornata di scuola, stiamo parlando, c'è una giornata di manifestazione in diverse regioni italiane contro la buona scuola, ma c'è chi, pur non essendo oggi in piazza per protestare contro la buona scuola, ha qualcosa da dire al governo sul tema delle supplenze. Lei è una dirigente scolastica, è anche consigliera comunale del PD a Bologna, l'abbiamo chiamata proprio per questo, perché pur essendo del PD dice cosa ne pensa chiaramente a Renzi di questa questione delle supplenze. Daniela Turci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Dirigente dell'istituto comprensivo, si chiama così, 20 di Bologna? Sì, sì. Perché sono numerati, sì, a Bologna? Sono numerati, sì, sì. Ah, vabbè, ma potete dargli un nome come gli comoda altri. Comunque, certo, abbiamo capito da quello che hai appena detto adesso che l'hashtag la buona scuola funziona molto, perché in effetti dire una manifestazione contro la buona scuola sembra subito, dici, ma come, perché siete contro la buona scuola, se è buona? Ma evidentemente non è così buona. Non è tutto buono quello che sembra. Qual è la questione che vi sta a cuore? Lei ha fatto partire anche una petizione che ha già raccolto un migliaio di firme sul tema delle supplenze. Il primo giorno. Perché, come saprete, per il primo giorno noi non possiamo nominare il supplente o la supplente nelle varie classi. Ma bensì da quale giorno di assenza? Dal secondo. Dal secondo. E per il personale, per i bidelli è anche peggio. Sette giorni. Cioè, quindi se manca un bidello o se manca un insegnante, il primo giorno non si può fare niente. Bisogna trovare una soluzione per i poveri ragazzi. Esatto, bisogna trovare una soluzione. Qui le soluzioni sono difficili quando ci sono classi che vanno dai 20 ai 27 alunni. 27 piccoli, alunni per classe, medi, sono tanti. Sono tanti, quindi si può fare... Quello che di legale si può fare è chiedere ai docenti che sono in servizio di supplire i colleghi assenti. Però la disponibilità non c'è, sì, c'è perché non si vuole più, il Ministero deve capire che non si può più pensare spremere ai docenti che lavorino gratis o quasi, perché sì, i fondi sono pochissimi poi per riconoscere questo servizio. Quindi è un bel problema, soprattutto perché adesso incominciano a stare a casa, magari ad ammalarsi veramente 10-12 sì, persone. Veramente, sottolineerei, veramente. Perché sì, vabbè, abbiamo casi di cronaca alle spalle, anzi di fianco, come quello di Sanremo, per esempio, famosi assenteisti, eccetera, eccetera. Beh, qualcuno poteva controllare lì prima, forse. Qui devo dire che io ho scritto al Ministero, mi avevano anche risposto, risolveremo il problema nella finanziaria 2016. Nella non mi pare vi sia stata alcuna soluzione. Allora ho pensato che come minimo bisognasse coinvolgere i genitori, mm-hmm, perché ci aiutassero in questo tema. In questo e lo avete problema fatto con questa petizione che sta andando. Come e si chiama la petizione? La petizione firmiamo per poter avere supplenti, avere questo potere, fra virgolette, di nomina sin dal primo giorno, e abbiamo messo in evidenza i problemi che avvengono, cioè il numero della sicurezza negli alunni quando si dividono, delle sì, classi. Abbiamo messo in evidenza quello che tutto di illegale fa un dirigente. E noi vi abbiamo voluto, diciamo, dare uno spazio, perché su questo tema è giusto accendere un'attenzione, anche perché sì, sappiamo che in molte regioni c'è la questione degli insegnanti di sostegno che sono mancanti, perché nonostante, l'ho già detto altre volte, l'assunzione dei 100.000 precari da parte del governo, richiesta dalle sentenze europee, eccetera, eccetera, però non sono stati assunti magari tutti gli insegnanti di sostegno che servivano, ma quelli che erano in grado. Quindi già abbiamo un problema con molti ragazzi disabili, e questa è una cosa che ci dispiace molto e ci sta molto a cuore. E poi, insomma, sapere che nelle scuole elementari o materne, dove già ci sono 25-30 ragazzi in una classe, si devono accorpare perché non si può avere il supplente per un giorno di malattia, o addirittura 7 giorni per i bidelli, sono tanti. Sette giorni, sono tanti. Hanno un compito importantissimo i bidelli, che si chiamano collaboratori scolastici. Commessi oggi. Di vigilanza, esatto. Di sorveglianza e di aiuto anche ai bambini disabili. Quindi sì. Se mancano tre, tutti e tre in una scuola, cosa facciamo? Quindi, insomma, caro governo Renzi, fai qualcosa su questo, perché è un punto, insomma, la scuola si regge su tante cose, su tante figure, anche sui commessi, sui bidelli, sul personale, come lo ha definito lei, scusi, correttamente? Personale? Collaboratore scolastico. Collaboratore scolastico. Comunque, quindi, le firme, sì, mi permetta, non sì. vanno raccolte solo a Bologna, all'Istituto 20, vanno raccolte in tutta Italia, forse servirà poco, però... Se ogni istituto comprensivo, se ogni scuola superiore di primo e secondo grado mobilitasse forze, sì, saremmo forse un po' più ascoltati, forse. Va bene, va bene, va bene. Grazie mille. Noi la ringraziamo, Daniela Turci, grazie per essere stata con buon noi. Lavoro. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Poi oggi c'è anche gente che è in piazza per manifestare proprio contro la buona riforma del governo. Quindi abbiamo scoperto che non è tutto buono quello che è hashtag. Sembrerebbe buono. Perfetta, questa me la segno. Alessandro da Como, buongiorno e benvenuto con noi questa mattina. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Alessandro? Ma io, riguardo alla ludopatia, volevo fare insomma qualche puntualizzazione. Anzitutto esiste nel quadro che avete esposto voi anche il gioco online, che è vero, che è la nuova frontiera, tra l'altro, il gioco sul web. Esatto, sì, che ogni anno conquista quote importanti di mercato, sì, e conta tantissimo. E soprattutto lo Stato non ci guadagna niente, giusto? No, assolutamente nulla. Su quello ci guadagna molto poco. Tant'è che basti pensare oltretutto al mancato introito che c'è stato circa un anno fa con la decurtazione di quella famosa sanzione che sfiorava il miliardo di euro e che poi è finita per le concessioni delle slot machine. Ma Alessandro, sei in macchina, stai guidando, sei in motorino. Sei dentro una slot machine. Sei dentro una galleria del vento. No, sono in macchina. Ovviamente non stai usando il viva voce e quindi questo non andrebbe bene. Non... È così? Mi sentite meglio adesso? Sì, molto meglio. Sì, abbiamo tolto il rumore di sottofondo. No, bisognerebbe usare il viva voce, però c'è un conflitto di interessi tra l'ascolto alla radio. Infatti mi sono fermato, esatto. E le regole del codice della strada. Bene, fermarsi è perfetto. Bravo, ecco, benissimo. Alessandro, ok, vabbè, su questo tema mi pare che... Tu hai una scusa che ci vuoi raccontare? La tua balla più grande, la tua scusa più grande che ti sei inventato o che ti sei trovato di fronte? Ci vuoi, vuoi giocare? Guarda, in genere sono molto bravo, però mi cogli impreparato perché non me ne viene in mente. Sei molto bravo a raccontare balle. Però le scuse bisogna raccontarle al volo, se uno se le scrive a casa è troppo facile. Tipo adesso se ti fermasse alle bugie bianche. Se ti fermasse una pattuglia dei carabinieri col telefono in mano, che scusa inventeresti per dire che eri costretto a farlo? Ma potrei dire che si trattava di mia moglie, che era malata a casa e che quindi incinta, che sta per partorire. Esattamente. Che fa più scena. Io avrei detto sono quelli di Radio 24 che mi hanno chiamato, io non c'entro niente. Posso dire un'ultimissima cosa sulla ludopatia? Sì, sì. Purtroppo è una vera e propria piaga sociale quella delle sale slot. Nei casinò, che sono tutt'altra cosa rispetto alle sale slot, esiste del personale addetto ad individuare i casi di ludopatia, ad assisterli e nei casi più estremi a interdirli all'ingresso al casinò. Le sale slot invece sono dei ricettacoli invece per ludopatici e potenziali tali, oltre che dei... Cioè vuol dire che non c'è nessun controllo all'ingresso delle sale slot? No, assolutamente. Ecco, assolutamente. Questo è un tema che andrebbe posto. Grazie, sì. Alessandro, grazie, buona giornata. Soprattutto non c'è attenzione ai giocatori, nel senso che volenti o nolenti un casinò ha voglia che si faccia buona pubblicità, quindi non è che ha voglia che le persone intorno al suo casinò, certo, si ammazzino per debiti. Tra l'altro sai qual è la cosa paradossale venuto fuori questa settimana? Che i quattro casinò che ci sono in Italia sono... in crisi, cioè i casinò che dovrebbero essere il luogo, cioè nel senso... Ma è ovvio, perché nel momento che tu puoi giocare ovunque. Devi andare fino ai luoghi deputati? Poi ben sai, per te è giustamente una battaglia importante quella sulla ludopatia. Io ti confesso che c'ho sempre questa posizione per cui ovviamente la ludopatia è terribile, mi spiace, però la questione delle tasse cioè di fare cassa attraverso il gioco d'azzardo, in un momento in cui stiamo facendo cassa su tutti, sulla pelle dei disabili, sulla pelle degli gli assistenti sociali, sulla pelle degli esami, dei ticket medici, dei pensionati, di tutto. Mi sembra che fra tutte le categorie, quelli che scelgono personalmente di andare a giocare tantissimo per diventare molto ricchi, mi colpisce meno. Poi sono d'accordo, nel momento che diventa invece una patologia, va curata. Era Cavour, e ci mancherebbe altro. Era Cavour, credo, una citazione che si fa ogni tanto, che diceva che il gioco d'azzardo era la tassa sugli stupidi. La tassa sugli stupidi ci può stare. Io dico che la tassa sulla stupidità. Sulla stupidità, che in un paese nel quale ci sono 4 casinò in deficit, e in cui i gestori di casinò, ma anche gli enti locali, chiedono di aprire altri 4 al centro-sud che non ci sono, per esempio un casinò in Sicilia a Taormina col turismo che c'è, ci starebbe alla grande. Andate a giocare al casinò, fate quello che vi pare, tassate i guadagni là dentro, però diminuiamo i bar con le slot machine, perché non c'è più un bar col biliardino, chiudono i ristoranti, chiudono i cinema, chiudono i teatri, non è possibile che aprano solo sale giochi. Giusto. Traffico, torniamo tra un attimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una citazione musicale per introdurre il prossimo argomento. Siamo a Book City, un grande appuntamento che c'è a Milano in questi giorni. Si parla di libri, si parla di tante belle cose. Salutiamo Alex Corlazzoli, maestro e scrittore. Buongiorno Alex. Buongiorno a voi radioascoltatori, eccoci qua. Buongiorno. Eccolo, allora la citazione è questa. Tu sei stato protagonista di un incontro che c'è stato ieri, però di cui ci piaceva comunque parlare, perché per noi di Si può fare era imperdibile, con lo scrittore tedesco Ape Kerkeling. Incorreggibili ottimisti è il titolo del libro che è stato presentato, e quindi noi ci siamo agganciati sull'ottimismo. Non so se Venditti era proprio in tema, perché Venditti è un altro tipo di ottimismo, la canzone, Alex. Sì, in effetti direi che Epp è molto più ottimista, insomma, di Venditti, forse. Ecco. E tra l'altro è una storia veramente toccante, una storia dal volto umano, direi. In questo periodo in cui siamo pieni di parolai, in cui c'è un sacco di ipocrisia e anche qualche libro un po' troppo ipocrita, questo è un libro vero e sincero. Lui, Kerkeling, ci racconta di questa storia, una storia in realtà che potrebbe apparire terribile, dove muore, dove c'è sua madre per depressione, sì. Ma di fronte alla morte di sua madre, e vi dico, io da maestro qualche volta insomma ho a che fare con qualche bambino a cui è morta la mamma, a cui è morto il papà, lui diventa un inguaribile ottimista. Proprio c'è una frase fondamentale del libro dove dice: quando muore una madre, il bambino che le sopravvive ha solo due possibilità: morire di dolore, di pena e di rabbia, oppure diventare un incorreggibile ottimista. Io ho scelto quest'ultima strada. È un'ottima scelta ed è diventato uno dei comici più famosi in Germania. È questa la cosa incredibile, perché è veramente, un conto è dirlo a parole, un conto poi è farlo e viverlo, e questo deve essere il messaggio straordinario. Io ieri non c'ero, essendo di Milano, a questo bel appuntamento di Book City, dove Alex appunto ha presentato il libro con lui, e quindi deve essere straordinario trovarsi a fianco una persona che tiene dentro di sé questi due momenti così terribili. Devo ricordare, a proposito di Book City, perché anch'io ieri non c'ero, ma volevo esserci, però siccome in questi 4 giorni di Book City a Milano di libri si parla moltissimo, stasera dalle 21:30 allo spazio Ex Ansaldo in via Bergognone 34 ci sarà il Milano Book Party, e ho l'onore, diciamo, di essere sul palco insieme a Vincenzo Costantino Cinaschi, Tito Faraci, Francesco Piccolo, Paolo Nori ed altri, a leggere pezzi di libro, ognuno dal proprio, quindi io leggerò pezzi di Fossi in te, io insisterei. Avevo bisogno di ricordarlo. Sei ancora vivo dopo tutti questi nomi? No, ci sono, ho fatto bene a ricordare tutto. Book City è meravigliosa, sì. Rende Milano ancora più bella. Esatto, quindi ci vediamo sicuramente stasera, immagino, al Milano Book Party. Tu farai sono lì, esatto. C'è da bere poi, insomma, ragazzi, non si può mancare, no? Questo è giusto che lo dica tu, perché non potevo dirlo io in radio, però sì, ci sarà anche da bere. Alex, maestro e scrittore, oggi tra l'altro c'è una manifestazione per quanto riguarda la scuola, contro la buona scuola, abbiamo parlato poco fa con una preside sul tema delle supplenze. Tu oggi però non sei a manifestare, sei in giro a Book City. No, No, oggi sono in giro e non sono manifestare, ma sono lì col cuore. Detta così suona male, ma ho manifestato tante volte perché l'hashtag giusto, io vi sentivo parlare di hashtag, è questa è la cattiva scuola, altro che buona scuola. Dobbiamo veramente. È troppo lungo, fatti correggere perlomeno su questo. È troppo lungo come hashtag perché rimarrebbero troppo pochi caratteri dei 140 che ha Twitter. Ma non si dica che noi censuriamo chi è contro la buona scuola, se no sembrerebbe questo. Scherzo. Naturalmente, però devo salutarti, Alex Collazzoli. Grazie per essere stato con noi. Spero di sentirti presto con la tua verve e anche i tuoi libri. Parleremo anche di questo. Un abbraccio. Devo dare un appuntamento perché torna, lo avete sentito anche la settimana scorsa, Nati per proteggere, le 8 storie finaliste scelte da AXA Italia per sostenere un progetto di protezione significativo, in palio un premio del valore di 50.000 euro alla storia che verrà votata da voi cari ascoltatori. E quindi adesso vi presentiamo altre due storie dopo quelle di settimana scorsa, poi andate sul sito e scegliete quella che preferite. L'arte supera tutte le barriere, si dice. E allora quale migliore alleato per chi vuole abbattere le barriere, materiali e mentali, legate alle persone disabili proprio dell'arte? È questa la missione dell'Arte nel Cuore Onlus, Accademia di Formazione Artistica per persone disabili e non. Il progetto di protezione che partecipa al contest è il laboratorio di teatro Il Talento Oltre le Barriere, come spiega Daniela Alleruzzo. L'Arte nel Cuore è la prima accademia al mondo di formazione artistica, dove appunto vede ragazzi diversamente abili e normodotati insieme frequentare corsi di recitazione, canto, danza e altro. Noi abbiamo partecipato a questo concorso Nati per Proteggere perché abbiamo come obiettivo quello di portare all'interno delle scuole elementari i nostri ragazzi diversamente abili, ormai pronti per insegnare la recitazione appunto nelle scuole, perché crediamo che questo progetto possa comunque riuscire a in qualche modo ad abbattere le barriere sul concetto della disabilità. Abbiamo fatto già questo esperimento l'altro anno grazie ha appunto una scuola che si è prestata a darci questa possibilità e i risultati con i bambini sono stati eccezionali. Sappiamo benissimo che i bambini non hanno barriere, siamo noi adulti che abbiamo abbiamo barriere noi, limiti nel guardare, no? Una persona diversa da noi, mentre il bambino non ha pregiudizi. Quindi credo che questo, grazie a questo progetto Nati per Proteggere di AXA, concorso AXA, ci potrà dare la possibilità di non solo far lavorare ragazzi diversamente abili come attori, docenti all'interno delle scuole, ma soprattutto ci aiuterà ad abbattere le barriere che purtroppo ancora noi italiani abbiamo. Questo per noi è molto importante, vi chiediamo di sostenerci, aiutateci a vincere questa battaglia importante, votateci, fateci vincere, grazie. Il prossimo progetto si occupa di proteggere i sogni. Casa Natural è infatti uno spazio di co-working dove gli aspiranti imprenditori possono trovare molti aiuti. Siamo in un contesto di grande interesse come quello della città di Matera, dove però realizzare i sogni professionali degli aspiranti imprenditori dell'innovazione può non essere una cosa semplice. Ce ne parla Maria Stella. Casa Natural è una casa, esiste realmente a Matera, una casa in cui incubiamo sogni professionali. Le persone che vengono da noi sono persone che hanno passione per qualcosa e sognano di fare il lavoro dei loro sogni. E noi li aiutiamo a realizzare questi sogni e li aiutiamo a realizzare il lavoro che hanno sempre desiderato di fare. Vi chiediamo di sostenere Casa Natural proprio perché dobbiamo aiutare queste persone a realizzare il loro sogno professionale e dobbiamo proteggerlo come un sogno di felicità che non riguarda solo la loro vita personale, ma anche la loro vita familiare. Poter fare il lavoro che si è sempre sognato è quello che tutti noi abbiamo sempre desiderato e a Casa Natural noi lo rendiamo possibile proprio perché forniamo alle persone gli strumenti e le risorse che a loro servono per poter realizzare quello che sanno fare ma che spesso nessuno li incoraggia a fare. Quindi abbiamo progetti per le famiglie, abbiamo progetti per l'agricoltura collaborativa, abbiamo progetti per l'insegnamento delle lingue con metodologie non tradizionali, ma abbiamo bisogno di formare queste persone con formazione di alto livello e quindi abbiamo bisogno del vostro voto perché dobbiamo vincere questi soldi per aiutarli a formarsi. È una vittoria collettiva di comunità. Non è per noi, per la formazione di una o due persone, è la formazione di una comunità intera e la loro formazione ricadrà sui loro figli, ricadrà sull'intera città, ricadrà sul territorio e su tutte le esperienze che anche in futuro noi e loro incroceremo lungo la nostra strada. Potete insomma individuare a chi assegnare il premio da 50.000 euro sul sito natiperproteggere.it. È tutto per la puntata di oggi. Buon sabato. Buon sabato, ci sentiamo domani. Saluti e ringraziamenti a Andrea Piana, Claudio Schiattone e il nostro regista di oggi Filippo Aureggi. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. A domani 8:30, si può fare. Ciao.